get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 900 di Radio Onda Rossa. E allora buonasera e ben sintonizzate. Siamo di nuovo qui a farci reciproca compagnia. Allora, quella che ascolterete tra poco è la nostra 177esima trasmissione, oh yeah, ed oggi qui in studio siamo Lucilla, che sono io, Pina, che è una voce inconfondibile che voi conoscete ormai, e inoltre ci aiuterà al mixer l'insostituibile Caterina, e vai! Voglio dire una piccola cosa, e cioè che saluto, se all'ascolto, Lucia, e spero che lo sia, perché questa trasmissione è una grande amica mia, e gliela vorrei dedicare a lei e a tutte le donne indomite come lei. Allora, l'argomento di questa trasmissione è economia e divisione sessuale del lavoro. Per realizzarla abbiamo raccolto dati in parte provenienti da una pubblicazione che si chiama, il cui titolo era Globalizzazione ed economie del quotidiano, e la pubblicazione è stata curata dalla Libera Università delle Donne di Milano e in particolare da Paola Melchiorri. È uscita nel 97-98, ma guardate che l'analisi contenuta è assolutamente contestuale e attuale. In parte invece da altri dati raccolti su internet e relativi al mercato femminile del lavoro in Italia, curati in parte da Chiara Saraceno, un articolo della Saraceno appunto, in parte da Lucina Catenacci. Allora, sono sicuramente dati parziali, ma nonostante questo interessanti per un inizio di riflessione su un aspetto complesso come l'economia patriarcale e capitalistica, tema sul quale ci riproponiamo di tornare anche con l'aiuto ed il vostro contributo. Vi ricordiamo a questo proposito che avete la possibilità di intervenire a questa trasmissione attraverso l'invio di SMS al nostro numero di cellulare che stasera non abbiamo, e quindi se ce le volete mandare le potete anche mandare, ma li ascolteremo, cioè li vedremo domani, anzi, domani, che è mercoledì, perché sapete, come ben sapete, il mercoledì noi ci riuniamo. E vista, oppure possono telefonare direttamente domani presso la nostra sede allo 06 6864 201 dalle 20:30 in poi. Vista l'entità dell'argomento, ci rendiamo conto che forse un messaggino potrebbe essere troppo sintetico, e allora appunto potete telefonarci domani sera, oppure vi ricordiamo che potete scriverci alla nostra mail, che è contatti@clrbp.it, oppure scriverci presso il Centro Femminista Separatista a CLR in via San Francesco di Sales 1B 00 165 Roma. E adesso, prima di entrare nel tutto, ci ascoltiamo un pezzo musicale. Di quale? Quello che abbiamo detto? Di Giuni Russo, che si intitola La donna è mobile. Ed è più maschile la borsa. quale, chi ti sfugge o chi ti assale, infinito dai, dimmelo tu. È più femminino il tatuaggio, l'orecchino, psicanalisi, aiutami tu. Allora, intanto mi diceva l'insostituibile Caterina, che giustamente potete chiamare anche qua in radio, ed è lo 06 49 17 50. E adesso andiamo con dei dati relativi al mercato del lavoro delle donne in Italia. I dati sono tratti appunto da La Voce Info e l'articolo è di Chiara Saraceno e si intitola L'arduo incontro tra le donne. Ovviamente non riportiamo completamente l'articolo, ma degli stralci e un'analisi che abbiamo cercato noi di far sopra a questi dati. Allora, i dati presentati dall'Istat sono relativi al periodo 2003-2004 e al quarto semestre 2004. Attualmente non c'è ancora un elaborato relativo al 2005 appena trascorso, e questo è ovvio, no? Da questi dati emerge innanzitutto la diminuzione delle persone in cerca di occupazione, che si attesta al 4,3% rispetto al tasso di disoccupazione accertato, che è dello 0,4%. Quindi intanto allo 0,4%, lo capite, va aggiunto il 4,3%, che non è poco. La questione sollevata da Saraceno, che dice infatti di non essere ottimista, è che l'occupazione ha praticamente smesso di crescere. Tale fenomeno della diminuzione dell'offerta di lavoro e della disoccupazione pare essere determinato dalla diminuzione del tasso di attività, soprattutto delle donne ed in particolare di quelle del sud, cioè tutte cose, vero, impensabili direi. I dati ci rivelano che le donne in cerca di occupazione nel mezzogiorno siano calate del 12%. In altre parole, stiamo assistendo ad una vistosa modifica dei gusti delle donne che evidentemente preferiscono rimanere a casa nonostante l'aumentato livello di istruzione. E dunque, le giovani donne meridionali tra i 15 e i 24 anni hanno un tasso di disoccupazione che tocca il 44,6% contro il 32% dei coetanei, e questo per quello che riguarda il sud, contro il 17,7% delle donne della stessa fascia di età del nord e contro il 25,9% delle coetanee del centro. Altro elemento è che la disoccupazione femminile di lunga durata al sud è del 12,2%, praticamente il doppio di quella maschile al sud, due volte e mezzo rispetto alla media nazionale e sette volte quella delle donne del nord-est, che hanno invece un tasso di disoccupazione pari all'1,7%. E ora basta con tutti questi dati che sono difficili da seguire. La Saraceno dice: se le donne meridionali, e noi aggiungiamo tutte le donne italiane, ricominciano a non presentarsi più sul mercato del lavoro, non è perché non lo desiderino e non ne abbiano più bisogno, piuttosto perché le chance di trovare un'occupazione, anche nella definizione larga utilizzata dall'Istat, come da tutti gli organismi internazionali, cioè aver fatto almeno un'ora di lavoro remunerato nell'ultima settimana, provate a campare con un'ora di lavoro se vi riesce, sono troppo scoraggianti, dice Saraceno. E invece diciamo noi che è la scelta obbligata quella di rimanere a casa. Se poi andiamo a leggere i dati sull'occupazione a tempo parziale, scopriamo che se è vero che su base annua il lavoro dipendente a termine è diminuito del 3,1%, questo dato riguarda quasi esclusivamente gli uomini. Per le donne invece è aumentato il lavoro a tempo parziale ed è un dato prevalente che si riferisce al nord. Nell'articolo Saraceno continua ad analizzare i dati del lavoro, dei lavori atipici e così conclude: la legge Biagi, trasformando i co-co-co in lavoratori a progetto, ha contestualmente ridotto la possibilità di rinnovare all'infinito questo tipo di contratti. L'obiettivo condivisibile, dice Saraceno, è di facilitare la trasformazione in contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, altrettanto precari dal punto di vista della sicurezza lavorativa, ma almeno con maggiore protezione dal punto di vista previdenziale. È da vedere se invece non sia stata incoraggiata la loro trasformazione in titolari di partita IVA ed in prestazione d'opera occasionale. Dovremo aspettare i dati del 2005 per fare una prima valutazione, questo è quanto dice Saraceno. E li aspetteremo anche noi, sapendo già che i nuovi dati saranno altrettanto sconfortanti. Buonasera a tutte, dopo tanto tempo eccomi qui in studio anche a me stasera insieme a Caterina e Lucilla. Io parlo della seconda parte di questa ricerca che è stata fatta e queste cose che adesso dico sono state prese da Monster, Donne il lavoro atipico di Lucina Catenacci. La Catenacci, dopo aver riportato dati tratti dal rapporto sul lavoro atipico curato dall'IRES per la CGIL e dal quale emerge una forte crescita dei lavori cosiddetti atipici, analizza i dati relativi alla differenza salariale tra donne e uomini. Sommando le classi di reddito complessive, la media del reddito percepito dalle lavoratrici è pari a circa 12 milioni annui, ovviamente di vecchie lire, ovvero alla metà di quello che in media portano a casa i colleghi maschi. E queste sono le conclusioni di Catenacci. Senza allarmismi, si può senza dubbio affermare che all'interno del mercato del lavoro atipico si sono configurate delle naturali gabbie salariali di genere. Vi sono percorsi di inserimento nel mercato del lavoro differenziati per sesso. Mentre per un numero consistente di maschi l'inserimento attraverso i lavori atipici mostra di essere una importante porta d'accesso al mondo del lavoro, per un numero consistente di donne ciò non è vero. Per alcuni gruppi, donne nelle aree più sviluppate del paese, l'inserimento nell'occupazione attraverso forme di lavoro flessibile tende a trasformarsi in una sorta di trappola permanente nell'area marginale secondaria del mercato del lavoro. Ci sono infine altri gruppi, le giovani donne delle aree meridionali, che rimangono escluse persino dal lavoro marginale secondario, in quanto il tessuto economico non è in grado di generare domanda di lavoro, pertanto nemmeno occasioni di lavoro atipico. Il lavoro povero genera, a sua volta, condizioni di svantaggio aggiuntive ed un devastante meccanismo di autoriproduzione. Le lavoratrici, oltre ad essere presenti nelle professioni a cui corrispondono bassi livelli retributivi, sono anche maggiormente esposte a rapporti di collaborazione più volatili rispetto agli uomini, che produrranno nel tempo, verosimilmente, anche rendimenti pensionistici molto poveri. Inoltre, chi non ha un reddito sufficiente non è in grado spesso di formarsi e di cambiare conseguentemente la propria condizione del mercato del lavoro. Questo è quanto. E allora, un appello. Valerie Solanas, illuminaci tu. What is your name? Come mi stava ricordando adesso l'insostituibile Caterina, voi potete e fare trillini e telefonare e scriverci tutti gli indirizzi che vi abbiamo dato prima, compreso il fatto che se volete potete mandarci anche gli sms, anche se non abbiamo dietro il telefono, quindi li leggeremo domani. Se volete ve lo ricordo, il numero di cellulare è 338-4146-682. Ci farebbe piacere avere un riscontro, perché questa trasmissione che noi abbiamo preparato e che parla appunto di economia e di visione sessuale del lavoro, per noi è un argomento pregnante, molto interessante, e gradiremmo avere dei riscontri appunto. Allora, andiamo a parlare adesso del significato, quindi l'economia e la divisione sessuale del lavoro rispetto allo scenario a questo punto mondiale. E quindi partiremo dalla globalizzazione, definita non a caso la seconda rivoluzione capitalistica. Ora, una nostra compagna di gruppo dice che questa è già la terza rivoluzione capitalistica. E va bene, noi accettate questa inesattezza, perché la prima, come ben sappiamo, è stata quella del 700-800, e qui l'abbiamo raggruppata, meglio nota come l'industrializzazione. Ma vediamo quali sono i settori di riferimento per quella attuale, cioè quella della globalizzazione. Allora, i settori di riferimento sono quello tecnologico, con l'informatizzazione che ha sconvolto il mondo del lavoro, l'istruzione ed il tempo libero. Poi quello economico, con la mondializzazione dell'economia, la cui regola fondamentale è la deregulation, cioè togliere le regole, no? E questa deregulation è stata voluta da Thatcher e da Reagan, che certo non sono stati dolci, no? E che tiene sotto scacco ogni paese. E quello sociologico, che ha visto la fine degli stati nazionali, anche se ancora esistono sulla carta, e della rappresentazione politica del potere a favore di strutture diverse di potere che poggiano su reti di organizzazione transnazionale, le multinazionali per capirci, favorite dalla manipolazione dell'informazione, e cioè da mass media. Ora, che fine hanno fatto dunque il progresso e la coesione sociale, definiti pilastri della democrazia moderna? Sono stati soppiantati dalla comunicazione e dal mercato. E andiamo a parlare della comunicazione, ma di quale? Di quella informatizzata, che ci viene proposta come la risorsa in grado di regolare tutto, capace di essere grande pacificatrice, mentre invece provoca alienazione e imprigiona le menti, anziché renderle libere. E per questo basta ricordare cosa passa per la televisione, per i giornali e per tutti i vari modelli, i mezzi di informazione. E ancora, il mercato permea ormai tutte le attività umane. Gli stati nazionali vi si affidano, vedi le privatizzazioni, no? Che vengono date a destra e a manca e che polverizzano i vari settori di riferimento, per cui non sai mai qual è più la tua controparte. Ma esso rappresenta l'avversario della coesione sociale. Che cosa? La privatizzazione è l'avversario della coesione sociale. Perché questo? Perché basta pensare che la logica di mercato divide il genere umano in due gruppi, i solvibili e i non solvibili, cioè quelli che pagano e quelli che non pagano, e i secondi, i non solvibili, non interessano, e dunque la legge di mercato produce diseguaglianza. Chi regola il gioco è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, non solo lei, naturalmente. Ma torniamo alla questione della diseguaglianza prodotta dalla globalizzazione, specificando che i meccanismi insiti in questo processo dividono la comunità umana in beneficiari e vittime della globalizzazione stessa. E non è un caso che c'è un sostantivo maschile e uno femminile. E torniamo alla macroeconomia. Su cosa si fonda? Su ciò che è contabilizzabile e quantificabile. Ma quali sono gli indicatori di questo processo? Probabilmente ciò che ha valore commerciale in termini di prezzo ed entrate. E ancora, su ciò che è giudicato accettabile ed importante nella definizione istituzionale dei diritti e dei doveri della collettività. Ma ancora una volta parliamo di economia commerciale, perché non ci risulta, per esempio, che il lavoro domestico e di cura, quello delle casalinghe per intenderci, venga riconosciuto e calcolato, ad esempio, nel PIL, cioè nel prodotto interno lordo, quindi tutto lavoro gratuito che fanno le donne e che non viene calcolato mai. E quello che è più grave è che su questo ci rientra l'affettività, e le donne su questa cosa perdono sempre. Su ciò che è scelto per figurare tra gli obiettivi della politica economica, e cioè entrate, equilibrio tra pagamenti e uscite, finanze pubbliche, eccetera. Ma dove si rintracciano, ad esempio, la qualità della vita? La macroeconomia parla di prodotti, di entrate, consumo, uscite, risparmio, investimenti, esportazione, ma non dice chi è interessato da questi processi. E cioè i poveri, i ricchi, i vecchi, i giovani, chi abita in campagna o in città, e meno ancora donne e uomini. Quindi le categorie economiche sono asessuate. L'analisi economica non si occupa delle relazioni sociali e di rapporti di potere, mentre finge di ricercare all'interno dello sviluppo un cambiamento sociale. Ma ancora una volta non chiarisce le finalità e quindi gli obiettivi delle strategie adottate. Ed è ovvio il motivo. Questa economia mondiale non è al servizio della società e della soddisfazione dei bisogni, ma al contrario è al servizio di pochi e dei profitti di questi pochi. È aggressiva verso l'umanità e l'intero sistema mondo. L'onere della ristrutturazione capitalistica viene pagato attraverso la distruzione sociale ed ecologica. Il potere viene perpetuato attraverso la creazione dei bisogni che rispondono alle leggi dell'economia di mercato, domanda e offerta, in una parola, nel consumismo. In questa cornice va inquadrata la questione del lavoro pagato e del lavoro non pagato delle donne, come viene rappresentato a livello della cultura dominante, come viene contabilizzato a livello dei meccanismi di questa economia. Come primo punto va detto che le donne sono state oggetti, parte non vista, incluse nei fatti ma escluse dalla rappresentazione, così come dice Paola Melchiori. Questo significa che tutto il lavoro di cura che le donne svolgono all'interno della famiglia non viene considerato, mentre impegna molte ore ed energie con un risparmio enorme da parte dello Stato e del capitalismo patriarcale. Da parte delle donne c'è una grande resistenza, diciamo culturale, a riconoscere in questo meccanismo il livello di sfruttamento a cui sono sottoposte, anche a causa delle implicazioni affettive e dei millenni di educazione e coercizione allo scopo di ottenere il profitto massimo. Faremo un esempio che riguarda i paesi in via di sviluppo che, siccome distanti da noi, possono essere visti in maniera più neutra. E andiamo quindi a parlare di una economista che è Esther Boserup. Ora scusate la mia pronuncia, ma tra me e Pina, accidenti alla meglio a chi poteva pronunciare. Che vuoi farloci? Allora, l'economista Esther Boserup ha fatto questa operazione di visibilizzazione del lavoro produttivo delle donne nelle economie più legate ad una fase premoderna e alle economie cosiddette di sussistenza. E sono quelle che riguardano il terzo mondo, no? Quindi attraverso le donne praticamente le popolazioni sopravvivono. Ha analizzato il contributo economico del lavoro femminile facendo degli studi di caso in tutti i continenti. Da questo studio è emerso l'enormità della cancellazione anche del lavoro produttivo delle donne. E quell'invisibilità che le femministe del nord denunciavano rispetto al lavoro domestico vale anche per i lavori produttivi, direttamente produttivi, dice Boserup, delle donne nelle economie di sussistenza. Le donne per 10-15 ore al giorno lavorano nelle società africane, vanno a prendere l'acqua, la legna, cucinano, lavano, poi vanno nel campo a lavorare la terra, cioè fanno un lavoro diretto di produzione agricola, di sussistenza. La Boserup ha mostrato che il lavoro delle donne nei due terzi del mondo non solo esiste, ma produce e mantiene in vita intere comunità. Ora, queste parti sono tratte sempre dal, come abbiamo detto all'inizio, nella presentazione, dalla pubblicazione curata dall'Associazione Libera Università delle Donne di Milano, e il testo è Globalizzazione ed Economia del Quotidiano. E sentite ancora come vengono organizzati gli aiuti umanitari in relazione al ruolo delle donne nell'economia di sussistenza. Le scoperte sono servite a vedere un'ulteriore possibilità d'utilizzo del lavoro delle donne, utile per risparmiare negli stanziamenti fatti dalle grandi agenzie internazionali. Ad esempio, si è fatto uno studio da cui è risultato che educare le donne alla prevenzione nella salute primaria era infinitamente più efficace sul piano dei risultati che non costruire ospedali o fare vaccinazioni di massa. Bene, se educhiamo le donne e le lasciamo a sbrogliare la situazione sanitaria, si risparmia sugli interventi sociali e sugli investimenti sociali. Questo risultato si è riprodotto in moltissime altre situazioni. Si è visto, infatti, quanto sia produttivo sul piano economico mandare le bambine a scuola. Non le si manda a scuola per fare giustizia ad una discriminazione secolare, ma perché le donne, meno ignoranti, permettono un abbassamento della natalità o un risparmio sui programmi sociali. Queste non sono deduzioni o interpretazioni fatte per esempio da noi, che lo sapete, no? Che noi siamo di parte, ma considerazioni scritte a chiare lettere nei documenti ufficiali, niente po' di meno che della Banca Mondiale, ad esempio. E ancora questo è stato l'abbiamo evinto dalla pubblicazione Globalizzazione ed Economia del Quotidiano. Che stavamo facendo, il ruolo delle donne è importante nel senso del risparmio della spesa pubblica. Questo risparmio ricade sempre e in ogni caso su di noi, che possiamo continuare a fare bene, gratis e ancor di più ciò che facciamo da sempre, segregate amorevolmente nell'ambito della famiglia, cellula essenziale per produrre profitto a favore degli uomini e del capitale. È più caro adesso perché avversiamo le rivendicazioni sui diritti delle famiglie similari da parte del movimento omosessuale? Le donne hanno la funzione di parafulmine. Se le cose vanno male, sono loro a farne la spesa in termini di flessibilità e uscita dal mercato del lavoro, riduzione e tagli dei servizi sociali, violenza e sopraffazione. Non a caso in India sono ripresi gli omicidi delle donne a causa della dote. I maschi, che non trovano lavoro, si sposano e vivono con la dote portata dalla moglie. Ma quando questa risorsa finisce, uccidono la donna per poi risposarsi e riprendere da capo. È giusto dunque inserire il lavoro di cura nell'analisi dei meccanismi attraverso cui funziona il capitalismo patriarcale oggi globalizzato, collocandolo nell'attività di riproduzione sociale universalmente considerata propria delle donne. E dobbiamo essere noi a scardinare questo sistema, perché produce innanzitutto la disparità di genere. La povertà, in parole povere, ha il volto femminile. Su 1,3 milioni di poveri al mondo, il 70% è costituito da donne. Sono dati che emergono da una ricerca pubblicata dall'ONU nel 2000 e non crediamo che in 5 anni la situazione possa essere cambiata in meglio. Ancora una volta ascoltiamo la splendida voce di Giuni Russo e il pezzo si chiama Mezzogiorno. Allora, c'è una telefonata in diretta, stiamo ancora noi in diretta, se ci può chiamare alle 10 quando terminiamo la trasmissione, sempre sul telefono della radio,

Allora, io ve lo ricordo lo stesso il numero degli SMS, perché è vero che oggi non ci abbiamo il cellulare appresso, però rimangono nell'etere i messaggi e domani quando lo accendiamo li potremo leggere, eventualmente li leggiamo durante la replica della settimana prossima. Il numero del cellulare sul quale potete mandare gli SMS è 338-4146-682. E va bene, adesso sentiamo un altro pochettino di questa musica che sta andando in sottofondo, che sono, ricordo, le Zap Mama. Allora, gli appuntamenti, dunque questa è una settimana ricca, direi ricchissima. Intanto due grandi manifestazioni. La prima nella città, nella ridente città, cioè a Napoli, ed è l'11 di febbraio. La manifestazione a Napoli è la continuazione, diciamo così, dell'appuntamento che c'è stato a Milano, la grandiosa manifestazione delle donne di Milano per l'autodeterminazione e perché nessuno possa legiferare e dire sul corpo delle donne. E quindi è un grande appuntamento, le donne si stanno organizzando e su questo attacco alla 194 come alla legge 40 e a quant'altro, beh, le donne stanno facendo il loro percorso, meno male. E considerate che il nostro glorioso, direi, ministro della salute sta continuando ad attaccare, e vedete un po' quello che sta accadendo, non si commenta da solo quello che sta accadendo in relazione alla RU486, come cavolo si chiama, cioè che sta impedendo l'importazione in Italia, e questo grazie a Storace, che è sulla questione dell'autodeterminazione delle donne, mi sembra molto deciso. Ora c'è da dire che tra destra e sinistra, tra la cosiddetta destra e la cosiddetta sinistra, mi sembra, scusate che mi impappino stasera, ma è tempo fresco, mi sembra che per esempio sulle quote rosa abbiano trovato una comunione di idee, una comunanza di idee trasversale, al di là di quello che si possa pensare sulle quote rosa. Non è che noi stiamo qui a disquisire e a dire oddio quanto sono importanti le quote rosa. Sul piano istituzionale abbiamo molte cose che non condividiamo. E poi sabato c'è un altro appuntamento. Pina, vuoi dire qualcosa sull'appuntamento di sabato? Ma l'appuntamento di sabato è organizzato dalle donne, dal gruppo qui, l'appuntamento che è sabato, la manifestazione che si terrà qui a Roma, e In pratica facciamo breccia il gruppo. Ecco, non mi veniva in mente, mi sfuggiva il nome, insomma mi ricordavo la breccia ma non sapevo che cos'era. La breccia di Portavia è una cosa importante. Se era la breccia di Portavia facciamo breccia. Insomma, comunque vabbè, a parte gli scherzi, non mi ricordavo veramente il nome del gruppo. Quindi il gruppo Facciamo Breccia ha organizzato per sabato alle ore 14:30 l'incontro è a Bocca della Verità a Roma per questa grande manifestazione Novat, cioè praticamente in difesa sempre dell'autodeterminazione delle donne, però soprattutto per far cessare l'ingerenza del Vaticano nelle questioni che riguardano innanzitutto l'autodeterminazione delle donne, ma soprattutto la laicità dello Stato. E Novat, ricordiamolo, vuol dire non Vaticano, per la libertà inoltre e contro la discriminazione verso lesbiche, gay, trans. È chiaro che tutte sono invitate a partecipare e tutti anche, quindi vi aspettiamo in massa per questa grande manifestazione. Noi del CLR sicuramente ci saremo, perché riteniamo che il Vaticano adesso, insomma, si è un po' troppo allargato, è diventato chiattulillo, sì, è chiatto ormai, è diventato chiattulillo il Vaticano. E come quindi noi siamo anche, sì, noi siamo, no, dell'avviso giusto per che... continuare su questa falsa riga, come si dice a Napoli, è trasute sicche se mi sei chiatto praticamente. esatto proprio molto chiatto. E noi abbiamo aderito come CLR a tutte e due le manifestazioni e riteniamo importante che ci siano tutte e due. Certo. Noi in questo momento parteciperemo a quella di Roma, perché è una scelta che ci ha convinto di più, ma non per importanza, riteniamo che siano tutte e due importanti. E però noi saremo presenti e speriamo, per appartenenza, per tutta una serie di cose. L'unica cosa sulla quale per Roma e quindi per Novat sicuramente abbiamo una dissonanza di voce è che in alcuni volantini che sono circolati loro parlavano anche per le unioni civili. Noi, anche per il tenore della trasmissione di questa sera, mi sembra che sia chiaro che non vogliamo famiglie né di serie A né di serie B, ma neanche di serie C. Proprio non ci interessano, non ci interessa i luoghi di oppressione delle donne. Ok. Allora, un altro appuntamento al quale noi teniamo in maniera tantissimo strepitosa è quella del 15 di febbraio alle ore 21 presso la Casa Internazionale delle Donne. Viene presentato il libro della dottoressa Monica Cristina Storini. La dottoressa Monica Cristina Storini è anche una nostra compagna e il libro è L'esperienza problematica, generi e scritture della narrativa italiana del Novecento. Sarà presente l'autrice e presenterà la dottoressa Sapegno. Ora, a noi piace gonfiarci un po' e fare un po' le pavonette, le pavone, le pavoncelle, ecco. E quindi, non so, Pina, vuoi leggerla tu? Questo libro è dedicato anche a noi e ce l'ha dedicato Monica. Allora, praticamente nella sua premessa, nella sua introduzione, lei l'ha proprio detto a mo' di premessa, insomma, quindi è passata poi a un certo punto ai ringraziamenti, Monica, e dice: infine, e questo ci piace leggerlo perché veramente ci riempie di orgoglio e di felicità. Infine, la rete di affetti che ne hanno sorretto la stesura, mia sorella e mia madre, che mi hanno sopportato anche quando di pazienza ce ne sarebbe voluta troppa, e le mie amiche e compagne del Centro Femminista Separatista della Casa Internazionale delle Donne, Ada, Annalisa, Caterina, Claudia, Elena, Giovanna, Lucilla, Pina, Tania e soprattutto, non me ne vogliano le altre, Rosina, senza il supporto relazionale e politico delle quali le pagine che seguono non avrebbero mai potuto trovare un filo rosso che desse loro senso. E allora la canzone che va ora si intitola No Compromise e sono delle Kick la Luna. Noi ve la facciamo ascoltare, dedicata a Monica in particolare. E poi non andate via, perché c'è l'ultimo appuntamento che vi dobbiamo dire, che è il più importante in assoluto. Yeah. Friendship, and I will be so open. As far as I can, I'm not feeling as I can. As far as I can, as far as I can. The way I go, smile. This is not a lonely path. Even over slowly, ground, I have to follow my heart. The way might not be yours. Devotion. Would you like to follow me? Hey, hey, and I'll come and follow you so far. Allora, l'altro appuntamento riguarda sempre Roma e le romane. Ma se volete venire da fuori Roma, noi vi accogliamo a braccia aperte, ed è il 18 di febbraio dalle 20:30 in poi. Il CLR, cioè il Coordinamento Lesbiche Romane, e il CFS, cioè il Centro Femminista Separatista, invita tutte le donne che ne vogliano approfittare presso la Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1B, cioè quella che noi ci ostiniamo a chiamare la parte separatista, ci ostiniamo noi e cerchiamo di, con l'ostinazione, di salvaguardarla. E, dunque, la serata si intitola, o vorrebbe titolarsi, chi l'ha vista Valentina? Perché avete vista voi? No, noi no. Vabbè, comunque, chi l'ha vista? Vediamo, raccontiamocelo chi l'ha vista. Il 14 febbraio... abbiamo intorno al 14 febbraio, mai il 14 febbraio perché su questo non ci piace, però intorno a quella data abbiamo cercato di raccontarci qualcosa intorno all'amore e di raccontarcela a partire dal nostro modo di sentire l'amore. Allora, l'anno scorso abbiamo fatto lettura di poesie e brani musicali che una nostra carissima amica e compagna ci ha accompagnato con la chitarra. Quest'anno ci saranno dei dialoghi, quindi dei dialoghi narrati, cioè dalla prosa, quindi prenderemo da vari pezzi, alcuni saranno molto seri, altri saranno meno seri, ma è il modo di raccontarsi e di raccontare l'amore che le donne fanno, e lo fanno a due voci, perché se c'è una lesbica ce n'è sicuramente un'altra, due donne che si amano. E quindi questa parte noi stiamo decidendo il titolo, però probabilmente è La musica delle tue parole, che ci sembra molto bello e che ha trovato la nostra amica qui che sta in sede adesso con noi, una certa Pina, mi sembra, sì, Pina. La conoscete? Chi l'ha vista? Ah, chi l'ha vista, Pina? Non lo so. Come Valentina. È come Valentina, questa sconosciuta. E all'interno di questa iniziativa ci sarà, come al solito, la scena di autofinanziamento. Voi sapete che noi ci reggiamo su questo. In più verranno due donne, due cantautrici da Torino, che presenteranno alcuni pezzi loro ed altri interpreteranno altri pezzi di donne famose che hanno cantato e che cantano. Quindi ve lo ricordo, il 18 febbraio dalle 20:30 in poi noi siamo tutte lì, venite a digiuno, non vi dico purgatevi perché mi sembra brutto, però sapete, la maremmana che me ogni tanto esce fuori, e venite e ci vediamo insieme per passare una serata, perché è politico secondo noi anche questo, anche saper stare tra donne, sapersi divertire e saper dare senso a tutto quello che, tutti i sentimenti che ci appartengono, compreso l'amore, perché no? Quindi vi aspettiamo tutte quante insieme il 18 all'appuntamento con la musica delle parole. Allora, a presto. È la parola delle musiche. E quello che è bello è che noi improvvisiamo e si sente la musica delle tue parole. E va bene, comunque vi salutiamo e la prossima settimana questa trasmissione sapete che va in replica. Faremo degli stacchi per leggere i messaggi, dice Caterina. E naturalmente vi salutiamo. Io che sono Lucilla. Io Pina. Ciao! Caterina, che al mixer è insuperabile, come non posso dire come. Arrivederci. Come il tonno, insomma. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got